Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 10 minuti sarà il buon auspicio, il fatto del doppio numero. Speriamo di sì, ovviamente. Buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia il riposo del guerriero subito. No, sono velocissimo perché abbiamo tante cose da raccontarvi oggi. E subito con i numeri per i vostri sms: 349-238-6666. Servirà scrivere perché sarete chiamati a rispondere a una domanda fondamentale che vi farò tra poco. Poi la nostra pagina su Facebook, che è Il Riposo del Guerriero, potrete usare anche quella, e vi do anche il numero verde tra poco, perché alle 11.30 giocheremo con il mistero in 24 minuti anche oggi, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. dovete risolvere il mistero ascoltando gli indizi musicali. La risposta può essere un personaggio o qualcosa di conosciuto o una notizia della settimana. Ecco il primo indizio di oggi. Eccolo qua il numero verde per prenotarvi: 800 24 00 24. Allora, tutto nasce dal fatto che io sono nato il 17 settembre, quindi ieri ho festeggiato il mio compleanno. Ma ieri non è successo solo questo, c'è stata anche la partita del Cagliari contro il Novara, e a Massimo Cellino, il presidente del Cagliari, questa data non è molto piaciuta, e quindi ha pensato qualche giorno fa di chiedere ai tifosi cagliaritani di indossare il viola, perché dice: se il 17 porta sfortuna e anche i tifosi mettono addosso qualcosa che si dice porti sfortuna, il viola, le due sfortune cozzano e quindi si tramontano in fortuna. Cioè, questo è il ragionamento un po' contorto che ha avuto Cellino, ma ha funzionato, perché il Cagliari ha vinto 2-1 sul Novara. Di conseguenza, insomma, qualcosa è servito questo vestirsi di viola, anche perché i tifosi l'hanno seguito da questo punto di vista. Voi siete superstiziosi? Cioè, avete questa idea che ci siano dei segnali, ecco, che possono annunciarvi fortuna o sfortuna, oppure siete scaramantici, per cui prima di imbattervi qualcosa di importante fate qualche gesto o toccate qualche cosa? Insomma, qual è il vostro rapporto con la scaramanzia? Vediamo se ancora nel 2011 lo siamo o meno, scaramantici e superstiziosi. Chiaramente lo vedremo con molti ospiti, ma anche con voi. Vi ripeto i numeri: gli sms 349-238-6666, oppure la pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero. E visto che parliamo di superstizione, ecco Stevie Wonder. Anche Stevie Wonder è superstizioso, voi magari lo siete, appunto, forse avete qualche curiosità. Siccome oggi tra gli ospiti avremo anche chi ha scritto dei dizionari sulle superstizioni italiane, quindi magari avete qualche curiosità in proposito, quindi fatevi sentire. Qualcuno già scrive le sue, tra poco ve le racconterò. 10:15 Il riposo del guerriero. Marco scrive: alla mattina non scendo mai dal letto con il piede sinistro. Io non so, tra l'altro, uno come fa? Io appena sveglio non riesco a ragionare, quindi non riuscirei assolutamente a capire, insomma, come scendere dal letto. E comunque di solito scendo sempre col sinistro, quindi esattamente l'opposto, perché siccome dormo nel fianco, cioè, scendo dalla parte sinistra del letto, perché adesso c'è il muro, c'è l'armadio, per cui è impossibile ovviamente fare diversamente. Silvano Fuso, buona giornata, buona domenica. Altrettanto a voi, buongiorno. Silvano Fuso ha scritto per il CICAP un libro intitolato Superstizione, istruzione per l'uso, in che cosa si crede e perché. Allora, intanto, da dove cominciamo? Dal perché o da in che cosa si crede? Si può cominciare da dove si vuole. Io posso spiegare un attimino quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a realizzare questo libro. Sì. Le superstizioni sono piuttosto diffuse, appunto ne stavamo parlando. Non bisogna però demonizzarle, cioè la maniera migliore per difendersi dalle superstizioni è sicuramente conoscerle, cercare di capire quale sia la loro origine, e nel libro io cerco proprio di fare questo. Il libro è sostanzialmente diviso in due parti. Nella prima parte cerco, proprio facendo riferimento a quelli che sono i risultati di numerose discipline che vanno dalle neuroscienze alla psicologia cognitiva, all'etologia addirittura, no? Lo studio del comportamento animale, cerco appunto di addentrarmi in quali possano essere proprio le origini evolutive, direi, della nostra tendenza a credere nelle superstizioni. Ecco, ho una curiosità, ma gli animali istintivamente fanno delle cose che possono essere in qualche modo associate a una scaramanzia? Cioè magari non passano mai... ecco. Non so. Esatto, gli etologi, appunto, sì, cui facevo riferimento prima, hanno ottenuto dei risultati veramente straordinari, cioè hanno dimostrato che anche gli animali possono sviluppare delle vere e proprie superstizioni. Intanto, una superstizione che cos'è? È sostanzialmente una falsa relazione di causa ed effetto, no? Cioè si attribuiscono determinate conseguenze a eventi che in realtà poi non hanno nessuna relazione reale, quindi è una falsa credenza. Bisogna dare colpa a qualcosa, insomma. Animali hanno appunto dimostrato di essere anche loro vittime di questi errori logici, se vogliamo. Per esempio, negli anni 30 il grande psicologo americano Skinner dimostrò che i piccioni addirittura possono sviluppare delle false credenze che sono considerabili a tutti gli effetti delle superstizioni. Se c'è il tempo posso anche descrivere in che cosa consistettero questi esperimenti. Come no, proviamoci, certo, sì, diciamolo, raccontiamolo. Dunque, molto brevemente, lui insegnò, fra virgolette, a alcuni piccioni mantenuti all'interno di una gabbia ad azionare delle leve che determinavano l'erogazione di cibo. Quindi questi piccioni impararono a tirare la levetta e venivano gratificati appunto con delle granaglie, semi di grano, eccetera. A un certo punto però mise questi stessi piccioni in gabbie truccate, cioè in cui praticamente azionando la levetta non succedeva nulla e l'erogazione del cibo avveniva invece in modo del tutto casuale. Ora, i piccioni che cosa fecero? Se ad esempio pochi istanti prima che venisse erogato il cibo, non so, un piccione si stava grattando il petto con il becco, associavano quella cosa, certo, il suo comportamento all'erogazione del cibo, per cui lui continuava ossessivamente poi a grattarsi il petto nella speranza che il cibo venisse erogato, quindi si tratta di una superstizione a tutti gli effetti. Ecco, quindi diciamo che è istintivo comunque in qualunque essere vivente cercare dei segnali per accattivarsi la vita, tra virgolette, certo, in questo caso il cibo, appunto. Un riferimento proprio alle interpretazioni evolutive, no, evoluzionistiche delle superstizioni. In effetti ci sono forti indizi che fanno concludere proprio che questa ossessione che soprattutto gli animali evoluti come noi, come i primati hanno, nella ricerca di relazioni di causa ed effetto, sono vantaggiose, diciamo, alla sopravvivenza. Il problema è che molto spesso compiamo degli errori appunto nello stabilire queste relazioni. Anche perché probabilmente questa relazione non c'è, ecco tutto qui. Immagino. Infatti la superstizione è proprio una illusoria relazione di causa ed effetto. Non so, se uno dice: ah, io non passo sotto la scala per paura che mi succeda qualche cosa, cioè mette in relazione il passare sotto la scala con qualche evento negativo, quindi è una errata attribuzione di causa ed effetto. Ecco, tra le altre cose, proprio di scale parleremo più tardi durante la trasmissione, perché quando sentiremo Fables, il nostro esperto di guerriglia marketing, racconteremo proprio una pubblicità che ha a che fare con le scale e ovviamente con la superstizione. Fuso, siamo ancora molto superstiziosi, lo saremo sempre, immagino. In un modo o nell'altro, magari scaramantici, poi cercheremo di capire le due parole che significato hanno. Ma è come dicevo, appunto, questa tendenza alla falsa credenza in qualche modo è nata nel nostro cervello e si è sviluppata proprio per questioni evolutive. Come dicevo all'inizio, però, la difesa migliore è conoscere quale sia l'origine, di cercare di razionalizzare questa nostra tendenza proprio per evitare di esserne vittime. Perché penso le superstizioni possono essere del tutto innocue e possono semplicemente fare sorridere, però in alcuni casi possono avere dei risvolti assolutamente drammatici. Mi viene in mente ad esempio la superstizione diffusa in certe zone dell'Africa centrale, quindi Kenya, soprattutto Tanzania, in cui si ritiene, secondo le quali si ritiene che i soggetti albini, che sono rarissimi, sì, ovviamente in Africa, certo, però esistono, sarebbero portatori di sfortuna, per cui purtroppo in questi paesi esiste una vera e propria caccia ai soggetti albini, perché da un lato si pensa che portino sfortuna, paradossalmente al tempo stesso si pensa che alcune parti del loro corpo possano funzionare da potenti amuleti. Da amuleti, perché esatto. C'è una caccia veramente macabra e orrenda nei confronti di questi. Ma è ancora così, perché questa è una notizia che avevo letto anch'io qualche anno fa e so che si stava facendo molto per cercare di. Certo, c'è ovviamente un grosso sforzo per combattere. Di arginare, certo. Ovviamente queste cose che sono assolutamente agghiaccianti. Proprio. Ecco, quindi mai esserne schiavi, ovviamente, però dobbiamo metterci il cuore in pace perché abbiamo capito che è insito nell'uomo e nell'essere vivente esserlo, per cui un pochino è giusto che lo si sia. Sì, l'importante è esserne consapevoli proprio per cercare di difendersi. Fuso, qual è la sua scaramanzia, se ce n'è una? Direi di no. Diciamo che in qualche modo nessuno di noi è immune, cioè pensiamo anche a gesti che noi compiamo quotidianamente, non so, quando incontriamo un nostro conoscente gli diciamo buongiorno. Sì. Ora, se ci pensiamo bene, anche il fatto di augurare buongiorno è una sorta di superstizione, no? Perché riteniamo che le nostre parole in qualche modo possano influenzare gli eventi della giornata. Ripeto, nessuno di noi è immune da queste superstizioni o false credenze. Molto spesso, come dicevo, sono assolutamente innocue e quindi sarebbe anche assurdo cercare di eliminarle. Però possono essere il primo passo poi verso conseguenze anche molto più gravi. Questo sicuramente. Grazie Silvano Fuso, io voglio ricordare il libro Superstizione, istruzione per l'uso, in che cosa si crede e soprattutto perché, ritengo che sia la parte più interessante, edito dal CICA. Ancora buona domenica Silvano. Altrettanto a voi e agli ascoltatori, grazie. Allora c'è un messaggio molto curioso, dice: sono stata licenziata e ho fatto causa all'azienda. Dopo 2 anni ho vinto la causa ed era venerdì 17 alle ore 17, annullato il licenziamento, ordinato il reintegro, quindi a quanto pare non è che porti sempre male, forse però l'azienda al contrario avrà detto porta male, no? Perché è andato bene a lei, è andato male all'altro, per cui in qualche modo si ha sempre ragione, no? Basta leggere la cosa dal punto di vista corretto. Tra i tanti amuleti porta fortuna ce n'è uno in particolare che insomma abbiamo visto tante volte e probabilmente abbiamo anche posseduto. Il corno rosso. Il corno è il simbolo allontanante per eccellenza, simbolo della vita che allontana un'influenza magica maligna. Secondo la scaramanzia napoletana, il corno deve essere un dono, quindi per portare fortuna non deve essere comprato. Inoltre, deve essere rigido, cavo all'interno, a forma sinusoidale e a punta. Ecco, quindi immagino che tutti i cornetti rossi che avete non vadano bene. Primo, perché li avete probabilmente comprati, e secondo perché voglio vedere se sono veramente cavi all'interno. È difficile che lo siano. Andrea Malossini, buona domenica. Buona domenica a tutti. Andrea Malossini ha scritto il dizionario delle superstizioni italiane. Ci sono più di 500 credenze raccolte in giro per l'Italia, con le varianti regionali, perché non è che quella superstizione lì sia uguale in tutte le regioni, cambia. Esatto, esatto. Ci sono alcune superstizioni che sono diffuse più o meno in tutte le aree d'Italia, anche all'estero, altre invece che sono specifiche, e addirittura alcune dicono esattamente il contrario, tipo oggi è domenica, che è un giorno fausto e positivo per tutti, in quasi tutte le tradizioni va bene nascere, sposarsi, chiedere la mano alla fidanzata, eccetera, però ci sono alcune in alcune zone, tipo in Abruzzo, che è un giorno sfortunato e assolutamente non fare mai il bucato di domenica. Ecco, anche, con la lavatrice o semplicemente? Anche con la lavatrice, tra l'altro siamo in luna calante, che la luna è una dei punti di riferimento per i superstiziosi, e appunto anche in luna calante non si fa mai il bucato, perciò oggi attenzione, non lavate nulla, nemmeno in lavatrice. Ecco, la luna calante è sempre un momento sbagliato o ci sono delle superstizioni che la vedono invece come momento giusto per far qualcosa? No, come per la crescente, anche la calante ci sono delle azioni che insomma giova a farle in questo momento, e tutto quello che non deve crescere. Ah, quello che deve, ecco, se non volete che insomma vi cresca, se fate la barba oggi vi durerà per un po' di giorni. Comunque una messa in piedi, un taglio di capelli dura di più, comunque esatto. Questa stagione adesso è perfetta per vendemmiare, ad esempio raccogliere la frutta, fare la conserva, tutto quello che deve fare. Comunque questa storia, la storia della barba e dei capelli funziona, eh. Voi fate, voi provate, voi segnate sul calendario, fateci caso, e se fate la barba durante la luna calante cresce meno in fretta. Sembra una cretinata, ma pare che sia così. Provare per credere. Allora, se avete curiosità sugli oggetti o sulle credenze, scrivete un sms al 3892386666 o sulla pagina di Facebook, perché con Andrea Malossini vedremo di raccontarvi la storia di questa superstizione, e io partirò tra poco, dopo la pubblicità, con l'ombrello, cioè spieghiamo perché Andrea Malossini ci spiegherà perché aprire l'ombrello in casa porterebbe sfortuna. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di scaramanzia e superstizione, se ancora lo siamo, ricordare quali ancora resistono dopo tanti anni, con Andrea Malossini che ha scritto il dizionario delle superstizioni italiane. Stiamo per raccontarvi perché porterebbe sfortuna aprire un ombrello in casa. Andrea, perché porterebbe sfortuna? Beh, è un'origine comune a altre superstizioni tipiche, tipo quella di appoggiare il cappello o la croce sul letto, e ha origine dai preti che in passato, quando andavano nelle case a dare l'estremunzione, entravano con un ombrello, un baldacchino che li copriva per il sole, entravano nella camera, appoggiavano l'ombrello aperto in casa, appoggiavano il cappello e la croce, che la croce ora è l'appendiabiti, insomma un altro nome dell'appendiabiti, li appoggiavano sul letto, davano l'estremunzione, e lì moriva la persona dopo poco, e perciò è chiaro che era un segno di nefasti, questa di tenere l'ombrello aperto in casa. Certo. Sandra da Roma scrive, per esempio, che sua nonna era convinta che non bisognasse fare le conserve quando la donna aveva il ciclo, e addirittura diceva impediva a noi nipoti anche solo di avvicinarci a pomodori, basilico e altro, perché sarebbe marcito tutto. Sì, beh, questa è una tipica superstizione di similitudine. Quando avviene una cosa nella donna, tutte le cose che ci possono assomigliare, adesso non voglio essere un po' troppo così, però ecco, il ciclo, il pomodoro, il succo, eccetera eccetera, è una similitudine, perciò si poteva guastare questa operazione, perciò si evitava di farla. E molte superstizioni sono fatte appunto per similitudine, cioè una cosa che ci assomiglia e si cerca di evitarla perché non porti sfortuna. Comunque quella dell'ombrello, delle croci eccetera, e della base religiosa sono frequentissime le superstizioni. Anche quella del pane capovolto. Ecco, il pane capovolto è legato ai boia, vero? Il pane capovolto ha sempre l'origine, è legata alla croce. Quando sì. in passato si facevano i pani, una volta alla settimana di solito, si facevano queste grosse pagnotte, per farli lievitare si faceva una croce sopra, per farli lievitare meglio, e perciò una volta cotto, se si ribaltava il pane, si metteva con la croce in giù, era un'offesa al Signore Cristo e perciò portava sfortuna. Molte sono legate alla superstizione, alla religione. Ecco, tra le altre cose, leggo sempre dal dizionario di Malossini, se vi considerate avari, vi consiglio di non diventare mai generosi, perché si ritiene che se un avaro dovesse diventare improvvisamente generoso, vuol dire che sarebbe prossimo alla morte, per cui non cambiate mai assolutamente il vostro atteggiamento. Questa te la sono inventate gli avari sicuramente. Probabilmente sì, certo, così ha una giustificazione. Vabbè, molte hanno giustificazioni, in effetti. Ebenezer Scrooge, nel canto di Natale, una volta si mettevano le monete sugli occhi, no? Dei morti, perché servivano per essere poi traghettati, e servivano per pagare di conseguenza. Solo che Ebenezer Scrooge porta via, al primo gesto che fa è portare via le monete dalla salma del suo socio, per cui diciamo un gesto d'avarizia che la dice lunga poi sul carattere. È che cambia a un certo punto del racconto, sì, però infatti è già abbastanza vecchio, quindi probabilmente gli mancheranno pochi giorni dall'ultimo. E il Capodanno, nel Capodanno devono accadere tantissime cose o non accaderne affatto? Lì veramente ogni regione ha la sua. Sì. No, sono diverse, però è chiaro che molto spesso il primo giorno dell'anno si facevano le previsioni su come sarebbe andato l'avvenire. Chi giocava sulle ore, chi giocava sui primi giorni dell'anno, tipo in campagna molto spesso si guardavano i primi 12 giorni dell'anno, come era il primo sarebbe stato gennaio, come era il secondo dell'anno sarebbe stato febbraio e così via. E poi ci sono gesti scaramantici che vengono da tradizioni. Una cosa molto carina che ho visto rifare tempo fa in Romagna era buttare la pantofola dalla finestra alle ragazze in cerca di fidanzati, e come cadeva la pantofola indicava la direzione da seguire, dove si poteva dove avrebbero trovato un fidanzato, il compagno, una sorta di bouquet buttato, sì. Insomma, quindi potrebbe, e si fa ancora? Ce l'hai visto fare? L'ho visto in Romagna una decina d'anni fa che rievocavano questa superstizione il primo dell'anno. Quindi erano d'accordo le ragazze a passare sotto i balconi con tanto di ciabatta cadente, immagino. Sì, forse in un piccolo paese una volta poteva, adesso con i grattacieli dopo vanno a cercare dove si è lanciato giusto. Ecco, Max scrive: ritengo che la superstizione sia sintomo di presunzione. Come si può credere che un nostro gesto possa influenzare, per esempio, l'esito di una partita? Abbiamo risposto prima a questa domanda, nel senso che non è che lo si creda, però siamo soliti, ma proprio pare tutti gli esseri viventi, abbiamo visto anche gli animali, associare dei gesti, delle situazioni a un fatto, per cui una volta che questa associazione esiste è difficile poi togliersela, perché ormai ce l'abbiamo nel cervello. Non è che ci crediamo, però, no? Non ci credo, però. Come dipende, alcuni sono pura superstizione, cioè dividere qual è la pura superstizione e quella no è difficile. Comunque ci sono alcuni atti che hanno una base e può funzionare. Ad esempio tutti quelli che al parto le donne evitavano ad esempio di avere addosso oggetti di metallo, collane, forcine, tutto quello che infatti può disturbare il travaglio, e lì è nata la superstizione di togliersi tutto, ma quello è un'origine razionale. Ecco, perché non vanno mai regalate cose a punta, tipo le forbici o le spille? Sempre per lo stesso motivo, cioè tutto quello che punge, che è pericolo, che può far male, vengono evitate. Può provocare danno, ovviamente. Può provocare danno. Allora, il gallo ho scoperto che porta buono sentirlo cantare, e ancora meglio sarebbe prevedere quante volte canterà. Sì, il numero, sì, sui numeri, sul numero dei canti del gallo, indovinarle. Però questa non ha nessuna base. Sì, scientifica, origine, ecco. Non che qualcosa abbia una base scientifica, però. No, ce ne sono alcune, sì. Sempre legato alla campagna, ad esempio il ferro di cavallo, che molti sì. considerano un portafortuna, anche se pochi credo sappiano il perché. questa ha un'origine chiara. Il ferro di cavallo, quando intanto sempre i portafortuna vanno sempre o trovati o regalati, meglio trovati. Il ferro di cavallo in particolare, in passato per un contadino trovare un ferro di cavallo per la strada era una ricchezza, era il ferro, il metallo non si trovava, poi se si pensa che in passato, perché l'origine è antichissima, nell'antica Roma li facevano con metalli preziosi, trovare appunto un ferro di cavallo portava bene. Ecco, quindi, beh, certo, perché era come noi trovare una moneta, insomma, o un pezzo certo. da 50 euro, che non sarebbe sì, anche sì, male. Sì. Allora, se avete qualche curiosità su appunto degli oggetti o degli atteggiamenti che possano portare bene o male, scrivetecelo, fatecelo sapere, perché poi chiederemo a Malossini l'origine e appunto se portano bene o male e dove, perché abbiamo capito che regione per regione le cose possono cambiare. Il numero 349-238-6666 e intanto ti ringrazio Andrea, dopo. Grazie, buona domenica. Allora, avevo visto un messaggio, diciamo, come diceva Totò, scrive Marco, credere è da stupidi, ma non credere porta male. Vieni qua, è la seconda volta che mi hai assassinato. Io quando, dove? Quando, dove, perché sei andato dal giudice a dirgli tutte cose in tuo favore, gli ho detto. Ah, che sì? sei un tipo gioviale, che non hai nessuna cattiva fama, un portafortuna. Un portafortuna? E allora perché mi ha licenziato? Me lo domandico, ma io lavoro con i fuochi artificiali, Rosario mio. È una cosa pericolosissima. E poi tu ti la mano pesante. C'ho la mano pesante, Lo riconosci che c'ho la mano pesante? Come? No? Perché non gli hai detto al giudice che io c'ho la mano pesante? Perché non gli hai detto al giudice che durante la festa di San Gennaro, in omaggio alla mia presenza, i fuochi scoppiarono in vela della Madonna? Che si incendiò. Che si incendiò. E perché non gli hai detto che l'anno dopo i fuochi scoppiarono alla bottega del farmacista e morì il medico di guardia? E quella fu la cosa tua peggiore. E non mi hai cacciato via, figlio d'un cane. E non hai raccontato a tutto il paese che io sono un oiettatore. Ma non è vero. È vero. Sono un oiettatore. Eccolo qui, oh, così almeno abbiamo messo le cose in chiaro. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Non poteva mancare il nostro ricercatore nel settore glottologia e linguistica, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia. Ho detto tutto questa volta. Beh, Francesca. Sì. Posso cominciare con una domanda? Perché come no? Tutto quello che ho sentito finora era interessantissimo, però vorrei aggiungere il mio caso personale. Vai. C'è stato un periodo in cui mi facevano ritrovare ovunque nasi da clown e volevo chiedere a uno degli ospiti o agli ospiti precedenti se questo avesse una qualche valenza. Ma tipo che i tuoi studenti ti nascondevano nasi da clown dappertutto? Com'è che funziona? All'inizio ho pensato questo perché la prima volta mi è capitato all'università, però poi mi è successo anche a casa, nell'androne delle scale e sulla macchina. No, perdonami, però scusami, adesso voglio dire, trovare una moneta, una vite, qualunque cosa di uso più o meno comune è logico, ma trovare i nasi da clown, capisci che è una cosa un po' particolare, cioè non è che io per esempio non ne ho mai trovato uno in vita mia, e quelli che ho visto sono quelli dei clown appunto, perché nella borsa da lavoro, ma in giro è impossibile, quindi io credo che qualcuno volesse farti uno scherzo, no? Non è possibile. Però tanti nasi in tanti posti differenti, per cui mi chiedevo se per caso ci fosse un significato occulto che a me sfugge. A meno che tu non sia tipo una calamita che attira nasi da clown, però è interessante. Vediamo un po' poi se per caso Marossini ha una risposta, ma non credo, anche perché i nasi da clown sono cioè non è proprio, non sono nati nell'antichità, sono tra virgolette piuttosto recenti. Allora, Francesca, intanto parliamo di cominciamo dalla parola, giusto? Dalla parola superstizione. Sì, dalla parola, anzi dalle parole, perché vedremo poi che nella mente delle persone quando si parla di superstizione si vengono a creare delle vere e proprie catene di parole. Cominciamo con superstizione, il termine lo troviamo attestato già nel mondo antico, è una parola latina, è un composto, il prefisso è super per indicare una cosa che sta sopra e anche volendo una cosa che sta prima, e un verbo, una base verbale in cui dovremmo discutere la ragione della presenza di, visto che il verbo a cui ci si rifà è il verbo stare, quindi in qualche modo ci si aspetterebbe superstazione, non superstizione. Lasciando da parte questioni appunto prettamente linguistiche, che dire che il termine superstizione è attestato appunto già in latino, quindi nel mondo romano e lungo tutta la storia linguistica dell'Italia medievale, moderna. I significati che troviamo sono tanti e tendono a convergere naturalmente proprio in quell'idea, su quell'idea di fede timorosa nella potenza che viene attribuita a oggetti, gesti, invocazioni, persone. Oh, dal punto, se volessimo generalizzare, potremmo dire che le conseguenze della superstizione sono paradossalmente opposte, perché da una parte produce il tabù assoluto, ovvero il silenzio, c'è il timore che nominando una cosa che riteniamo essere portatrice di sfortuna, quella cosa si possa materializzare e quindi appunto evitiamo ogni tipo di riferimento, mentre dall'altra quello che si viene a produrre è un eccesso di parole. Perché? Perché quando ci troviamo a sentire o ad avere a che fare con una cosa che rientra tra le nostre superstizioni, tendiamo a utilizzare formule, scongiuri, ripetizioni di parole, ripetizioni anche di assonanze prive di significato, almeno apparentemente, che servono a tenere lontano l'elemento portatore di sfortuna. Ecco, quindi insomma intanto abbiamo capito come funziona, e come sempre, siccome anche le scaramanzie e superstizioni appunto hanno il dritto e il rovescio, a quanto pare anche addirittura la parola ce l'ha. Di conseguenza una verità ovviamente non c'è e non ci può proprio essere. Il riposo del guerriero. Di Venere e di Marte non ci si sposa né si parte. Laura scrive questo messaggio, non si dice soltanto in Veneto, si dice in tutta Italia, perché martedì era il giorno infausto legato a Marte, che era la guerra, il simbolo, diciamo così, della guerra, e quindi insomma partire in un giorno così burrascoso non sarebbe stato ideale, insomma, credo che arrivi da questo. E Venere invece, siccome Venere è legata comunque alla bellezza, l'amore, non capisco perché non ci si possa sposare di venerdì. Tu lo sai perché, Francesca? No. Ma sai, so che l'associazione a Marte e Venere era diffusa già nel mondo antico. Venere, dea dell'amore, quindi apparentemente ci si aspetterebbe anzi il favoreggiamento dei matrimoni. Ah, ma magari un matrimonio con tradimento, hai capito? È per quello, potrebbe essere. Ah, potrebbe essere. Varrebbe la pena di indagare. Sono convinta, anche se in questo momento la memoria non mi supporta, che ci sia qualcosa nel latino post classico a livello anche di racconto in cui si potrebbe trovare una spiegazione del perché questo tipo di pratica comunque connessa con l'attività amorosa non si possa esercitare il venerdì. Ecco, potrebbe essere legato ovviamente anche alla pratica astrologica. E detto questo, Francesca, andiamo avanti con le parole. Ne abbiamo una in particolare che usiamo attualmente per dire la sfortuna, si chiama sfiga, ma sì. È così, è un'invenzione che è arrivata a un certo punto, o addirittura tu sai raccontarci l'origine di questo termine? Beh, l'origine credo che sia piuttosto trasparente, perché basta eliminare quel prefisso separativo s per capire che alla base c'è uno dei più diffusi termini sessuali, un termine panitaliano, termine che per la presenza di una g invece che di una k ci rivela un'origine settentrionale, quindi è lo stesso termine, dà luogo a due varianti che appunto sono riconducibili a zone diverse dell'Italia proprio per la presenza o meno di un suono sonoro o sordo. Il termine sfiga lo troviamo attestato, quando dico attestato naturalmente mi riferisco a testimonianze scritte, quindi questo significa che il termine era in uso già da prima, lo troviamo sicuramente attestato dal 1974 e a ruota troviamo il termine sfigato, sfigatore, sfigamento, chiaramente questi ultimi due li troviamo soltanto come occorrenze occasionali in blog, quindi come termini che ancora non sono stati santificati dalla lessicografia. È interessante vedere, constatare l'associazione di un termine base del lessico sessuale con l'idea della sfortuna. Altri termini altrettanto noti sono stati invece associati ad esempio all'ambito della stupidità o al contrario all'ambito della fortuna, si pensi all'uso del posteriore, ecco uso un sostituto eufemistico, all'uso del posteriore per indicare invece la fortuna, anche quella inopinata da cui ogni tanto si viene baciati. Ecco, e poi un'altra parola che usiamo è la iella, bisogna capire con quale i scriverla fra l'altro. Si può scrivere in tutti e due modi, questo perché il suono iniziale è un termine che anche dal punto di vista fonetico ha uno statuto a metà tra vocale e consonante. La prassi dell'italiano contemporaneo è stata di di congiungere questo suono alle vocali, e quindi questo ci ha portato a scriverlo con la I, mentre la prassi antica era quello di mantenere evidente questo status ambiguo del suono e dunque di segnarlo con quella che chiamiamo la I lunga, che noi in termine tecnico chiamiamo approssimante. Di questa ambivalenza del suono resta traccia in tantissimi cognomi. Pensiamo ad esempio, me ne viene in mente uno, Aiello, che nei documenti ufficiali troviamo a volte con la I, a volte con la I libera, cioè a volte con la I lunga, scusatemi, a volte con la I vocalica, con la I col puntino sopra, insomma, vera e propria. È vero. Senti, Voltaire considerava la superstizione una tara dell'umanità. Addirittura Albert Einstein invece ne allargava a tal punto il catalogo da farci rientrare la religione stessa, Dio compreso, che egli considerava l'incarnazione di una superstizione infantile. Ora, questo pensiero di Einstein in realtà si ritrova anche nella lingua, vero Francesco? Sì. Sì, è un argomento politicamente, chiamiamolo scorretto, comunque difficile da trattare. Mi viene in mente uno tra tutti, il passo di Lucrezio del De Rerum Natura, in cui si parla del sacrificio di Ifigenia, e a un certo punto si dice tantum religio o religio, pronunciato in maniera classica, potuit suadere malorum, quindi la religio, non lo traduco in questo momento, ha potuto spingere a tante malvagità, quindi a produrre tanti atti malvagi, cattivi. I filologi si interrogano sul significato da dare a questo religio. Sicuramente è un qualcosa che ha a che fare con la religiosità. Da alcuni religione è stata vista proprio come un sinonimo di superstizione, proprio perché entrambe sono accomunate dal dogmatismo. Un qualcosa che non si riesce a spiegare viene in qualche modo accettato e si crea tutta una forma, tutto un insieme di varianti apotropaiche che servono appunto per tenere distante ciò che si teme intorno a questi concetti base dell'umanità. E naturalmente c'è chi invece sostiene che la religione sia altro e che non sia giusto ritenerla una superstizione eletta a paradigma, quindi insomma non è una superstizione ritenuta più superstizione delle altre e quindi diventata punto di riferimento per molti. Quello che trovo interessante è che nell'ambito della documentazione che troviamo per le grandi religioni monoteistiche si parla di superstizione in riferimento alle altre. Quindi troviamo dei documenti cristiani in cui si parla di superstizioni in riferimento all'ebraismo e al contrario documenti non cristiani in cui è il cristianesimo ad essere etichettato come superstizione. Ecco, beh, questo comunque deve farci riflettere, molto interessante, perché ci fa capire, ci dà comunque la possibilità di fare un ragionamento e di avere un'idea delle cose. Per chiudere un minuto, se ci puoi raccontare scaramanzia, da dove arriva questa parola, ma credo che sia anche piuttosto semplice. Beh, è semplice, però non dal punto di vista etimologico. Non è mai semplice con la Dragotto, mai. No, non è mai semplice con la lingua. Il povero etimologista è quello che cerca di ricostruire, a volte arrampicandosi sugli specchi, e trovo doveroso, per onestà intellettuale, dire quando non si è certi di una ricostruzione. Hai ragione, perché, assolutamente. La cosa interessante, semmai, è che, e questo potremmo, questo vale anche per Iella, non per Iettatore, ma per Iella. Anche per Iella abbiamo una proprio un'oscurità dell'etimo di riferimento. E io questo lo trovo estremamente affascinante. Perché? Perché è proprio perché si teme un qualcosa che, per allontanarlo, al contrario, per renderselo propizio, si usa un insieme di suoni che sono scuri e non riconducibili ad altre parole. Certo. Personalmente sono propensa a pensare, sia per Iella, ma anche in qualche modo per iettatore, da iettare, sebbene per iettare abbiamo un antecedente latino, il verbo iectare, gettare, che poi, guarda caso, ritroviamo anche reificato, quindi reso concretamente anche con la pratica del gettare cose, penso al gettare il sale, quindi proprio come lancio di sostanza che tiene lontano. Insomma, personalmente sono propensa a credere che sia per iettare che per iella ci possa essere alla base proprio il suono ie, che spesso accompagna i gesti scaramantici. Ecco, ti devo interrompere qui, grazie Francesca e alla prossima. Ovviamente grazie, continueremo a parlare di questo nel riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Le 11:06, insomma, superstizioni, scaramanzie, di tutto e di più, ne abbiamo tutti qualcuna, o comunque ne abbiamo parlato sicuramente, l'abbiamo sentita, la tradizione ce le racconta, sono molti i vostri messaggi, cercherò di leggerne qualcuno. Allora, intanto volevo così augurare un in bocca al lupo, si dice anche così, no? Buona fortuna a Stefano che percorrerà il cammino di Santiago, quindi sarà via per un mese e magari poi ci racconterà com'è stata l'esperienza. Enrico su Facebook dice: dire che gli animali sono superstiziosi, affermarlo sulla base di fantomatiche ricerche scientifiche mi pare quantomeno forzoso. Si riferisce a quello che aveva detto il nostro primo ospite di oggi, che aveva scritto un libro proprio su questo, però insomma non credo si legasse alla superstizione, ma proprio al fatto della, dei comportamenti associati a cose piacevoli, per cui a dei riti, no? Il senso era anche gli animali hanno una certa ritualità perché per imitazione fanno delle cose che associano appunto a situazioni piacevoli, un po' come facciamo noi, credo che quello sia stato il percorso. Poi c'è un bell'articolo proposto da Manuel, vi consiglio di andare sulla nostra pagina di Facebook per leggerlo, riguarda i bambini stregoni. Per quanto riguarda le vostre domande invece su quello che porta bene e male, una è quella del sale, il sale sapete costava anche parecchio, quindi rovesciarlo portava sfortuna semplicemente perché era molto prezioso, però si diceva anche che gettare il sale dietro le spalle senza guardare dove andrà porta la salute, ecco perché quando si rovescia il sale se ne approfitta per buttarlo dietro le spalle. Però Andrea Molossini può aiutarci a raccontarci l'origine di altre superstizioni. Andrea, ciao di nuovo, buona domenica. Ciao. Allora, avevamo il cappello sul letto perché porta sfortuna, forse l'avevi detto anche prima, accennato. L'avevo accennato prima, è sempre il prete che dà l'estremunzione, appoggia il cappello sul letto, perciò è la stessa origine della croce e dell'ombrello. Ecco, poi abbiamo il perché si dice che lo specchio rotto porti 7 anni di sfortuna, perché proprio 7 è un numero mistico, immagino. Ecco, sui 7 anni è una cosa un po' strana, anch'io ho cercato tra le varie regioni, in certi posti sono 7 anni, in altri. Sicuramente porta sfortuna perché rompere uno specchio, c'è chi dà spiegazioni filosofiche che rompe il legame con la parte materiale, quella spirituale, presagio di morte, eccetera. In realtà è come il sale o come l'olio, cioè costavano tantissimo e rompere uno specchio era una disgrazia. Perché l'avresti pagato in 7 anni, questo è il senso. È la rateazione, in poche parole, poi ci sta. E senti, poi il gatto nero, vabbè, perché non si vedeva, le carrozze non lo vedevano, no? Poi certo, gli occhi riflettevano la luce. Il gatto nero, l'origine insomma, intorno al 500, quando il gatto nero era considerato l'impersonificazione del diavolo, camminava sempre a fianco delle streghe e si diceva che dentro il gatto nero in realtà stava nascosto il diavolo, veniva chiamato anche Magistrellus, insomma era un essere malefico che accompagnava sempre le streghe. Poi è chiaro che nero, di notte, strade non illuminate, carrozze eccetera, poteva essere un problema anche per chi viaggiava a buio. Però l'origine è legata alla stregoneria, ecco, quindi amiate i vostri animali, mi raccomando, fatelo sempre. Grazie Andrea Molossini, buona domenica. Ciao. Prego, ciao. A proposito di stregoneria, ci sono le fattucchiere. Francesca Dragotto, di nuovo te, velocissimi per spiegare l'origine della parola fattucchiera. La prima, due ne ho da chiederti. Ok, allora, fattucchiera da quasi tutti ricondotta a fattura per via della presenza della doppia T, invece sembra un'associazione indebita, perché alla base sembra esserci un verbo latino difettivo, nel senso che ci sono pochissime forme, forfaris, che significa dire, per cui il fattucchio è il prodotto del dire qualcosa, il fatto di produrre cose con le parole, produrre anche magie, incantesimi, ma anche produrre cose concrete. Ecco, qualcuno poi ci ha fatto notare che siccome parlavamo di sfiga, siccome in portoghese brasiliano figa vuol dire fortuna, allora sembrerebbe derivasse da lì, ma in realtà, Francesca, l'origine è sempre la stessa come quella italiana. Sì, è sempre la stessa, perché nel caso del lessico sessuale assistiamo paradossalmente ad una parte di termini che passano ad avere una connotazione positiva, addirittura relativa, forme superlative, mentre altri termini perdonatemi se lo dico, pensiamo al caso di coglione, cazzone, che passano invece ad avere un significato peggiorativo. E poi di questo parleremo e ci sarà una puntata su questa cosa, quindi magari. Preparatevi, no? Ne parleremo sicuramente, il perché, no? Interessante. E l'ultima domanda invece riguarda la parola colta che si dovrebbe usare quando qualcuno porta sfortuna e si dice ma sei un menagramo. Cioè? Parola resa arcinota da Fantozzi, menagramo di un menagramo, l'episodio famoso è quello dell'acqua minerale, è un termine dell'area lombarda, quindi diciamo che per il nord è il termine di riferimento, così come per il sud il termine di riferimento è iettatore o iellatore, che appunto come dicevo prima non sono la stessa parola, e si tratta di un composto su cui però, sul cui etimo anche in questo caso, perdonatemi, dovremmo discutere. Senz'altro ha a che fare con colui che esercita un'attività iettatoria, è proprio sinonimo a tutti gli effetti di iettatore. Quindi la stessa parola però in regioni, in zone d'Italia assolutamente diverse. Un regionalismo originariamente. Interessante, sì. Grazie Francesca, buona domenica. Grazie davvero, grazie. Poi scoprire l'origine delle parole è sempre interessante anche per capire la nostra storia. C'è Roberto Pani, psicanalista, insegna psicologia clinica all'Alma Mater di Bologna. Professore, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Roberto Pani, insieme a Samantha Sagliaschi, ha scritto un libro intitolato Sette e superstizioni, quindi un libro molto serio che parla delle sette. Ovviamente non è l'argomento di oggi, perché le sette sono tutte un'altra cosa, anche se hanno a che fare sicuramente con la superstizione, ovviamente. Certo, sì. E con la scaramanzia forse meno, però volevamo chiedere, professore, perché abbiamo bisogno di questo? Perché abbiamo bisogno di essere scaramantici, di credere in alcuni segni? Se ne abbiamo bisogno poi, io lo do come assioma, sì. Poi magari non è così, ecco. Ma fin dall'antichità questo è accaduto e tutt'oggi accade perché in fondo viviamo in un mondo molto tecnologico, tecnicistico, scientifico, cioè in sostanza un po' ritornando, come dire, all'atomismo di Democrito, all'illuminismo razionale del Settecento, insomma abbiamo un mondo che è un po' che ci incasella. Allora rimane questo grado di libertà che è quello di essere un po' superstiziosi, cioè quello di pensare che abbiamo un controllo e una possibilità manipolativa nei confronti della realtà e che quindi non siamo soggetti completamente a tutto ciò che le leggi ferree della natura o della scienza insomma ci costringerebbero. E quindi è una nostra difesa? È una difesa da sempre usata, un fatalismo che dà un grado di libertà. Naturalmente questo problema, questo aspetto porta a un problema, cioè al fatto che molte persone diventano dipendenti in modo ossessivo e compulsivo, cioè usano rituali, usano insomma delle procedure senza delle quali sembra che non possano vivere, quindi quando le cose sono molto molto, molto impegnative, molto serie da questo punto di vista. No, naturalmente c'è uno studio fatto in tutta Italia, quindi dal sud, centro, nord, vediamo che la maggioranza della gente non si dichiara superstiziosa, addirittura arriviamo quasi al 90%, però in pratica vediamo che tutti noi abbiamo delle aree di superstizione e che quindi che sono quelle poi più conosciute, insomma, cioè i numeri dispari, cioè il 13, il 17, insomma, mettere il cappello sul letto, un gatto nero che attraversa la strada. Sì, ecco, infatti abbiamo visto che ci sono delle superstizioni che restano. Le chiedo, professore, di restare un attimo con noi, degli aggiornamenti sul traffico perché ho un'altra domanda per lei. Il riposo del guerriero. Professor Pani, per quanto riguarda la superstizione, il grado di istruzione è una discriminante secondo lo studio che avete fatto oppure no? Beh, sì, lo è soprattutto nelle situazioni insomma intense dove la gente vive davvero pensando a quello che è il segno zodiacale o se ha attraversato il gatto nero, insomma in questo senso è discriminante, però ci sono persone laureate eccetera che per ragioni culturali e comunque per questo famoso grado di libertà di cui parlo in parte fingono, in parte aderiscono e quindi mantengono questa adesione alle abitudini superstiziose. E quindi insomma diciamo che in questo senso non c'è una discriminante, insomma chiunque anche che insomma appunto laureato a cui viene chiesto di che segno è, se avrà fortuna o sfortuna, è sensibile e quindi non è che ne distingua così insomma tanto. Diciamo che è un atteggiamento umano. Atteggiamento sì. Ecco, da psicanalista invece, quando, e questa è l'ultima domanda che le faccio, quando ci rendiamo conto che siamo compulsivi rispetto a una superstizione, a una scaramanzia per esempio, no? Adesso invento, ne dico una banale, non toccare le righe bianche quando si attraversa la strada, ecco, mi viene in mente una così, per risolverla, perché chiaramente quando qualcosa diventa compulsiva ovviamente ci limita anche la vita, no? In un certo modo, abbiamo bisogno di rivolgerci per esempio a uno psicanalista o possiamo fare qualcosa, una sorta di autoaiuto quando ci rendiamo conto che abbiamo un problema in questo senso? Insomma, è chiaro che rivolgersi a uno psicanalista bisognerebbe farlo nei casi in cui ci si accorge che questi rituali ossessivi ci limita, sono, certo, sono veramente limitativi, sì. Certo. In linea generale, niente, credo che occorra insomma fare un po' mente locale sul fatto che si sta diventando troppo dipendenti da situazioni che non sono, che non meritano tale interesse, e quindi insomma cercare di sforzarsi di non assecondare ogni piccolo impulso che porterebbe a questa dipendenza. Ecco, quindi, facile insomma, a dirlo, poi chi lo vive, però poi facile, però a un certo grado, come lei sa e come lei sta dicendo, in fin dei conti è umano, e allora cosa succede? Che non causa gravi problemi, solamente quando sentiamo che la nostra vita non è più nelle nostre mani, ma è nelle mani di qualcun altro. Cioè, mentre per esempio la religione diciamo sana, dove c'è la fede, così insomma le persone sono un po', cercano di essere modeste, di non di in qualche modo di aderire a quella che è la volontà di Dio, insomma, ecco. Il superstizioso invece è un narcisista che tende a manipolare la realtà e le cose, cioè ha un bisogno, cioè ha una fragilità di base che porta a una difesa di tipo narcisistico, cioè ingigantirsi attraverso un potere magico. E quindi naturalmente fa il contrario di quello che dovrebbe fare una persona diciamo di fede. Ecco, questa è una visione interessante che fa riflettere, da prendere in considerazione sicuramente, è una differenza che così mi sta facendo riflettere. La ringrazio professore e ricordo il libro Roberto Pani insieme a Samantha Sagliaschi, Sette e superstizioni, edito da Clue. Grazie ancora, buona domenica. Buona domenica a lei. Fables, ciao, buona domenica anche a te, il nostro esperto di guerriglia marketing. Ciao Stefano, buongiorno, buona domenica. Allora, ovviamente anche la rete ha fatto propria la superstizione, c'è, devo dire, una pubblicità molto interessante. In Spagna, se non mi sbaglio, era all'uscita della metropolitana, cosa hanno fatto? Ma guarda, era per la promozione di una mostra sulla magia e sul soprannaturale. Hanno praticamente messo in strada uno di quegli oggetti che probabilmente è più preoccupante per quanto riguarda una persona superstiziosa, vale a dire una scala appoggiata ad un billboard, vale a dire ad un cartellone enorme che ha praticamente due LED, uno all'interno e uno all'esterno, quindi praticamente segna il passaggio delle persone se passano o meno sotto la scala, per testare in qualche modo la superstizione degli spagnoli. Certo, il cartello diceva siete superstiziosi, siete sì superstiziosi, o no, e esatto. Il contatore contava quante persone passavano sotto la scala e quante invece dovevano aggirarla. Ecco, vi dico subito che usciti dalla metropolitana anche velocemente era molto più facile passare sotto la scala, cioè veniva istintivo, ecco, quindi sì, aggirarla comunque significava fermarsi un attimo, capire e aggirare la scala. Beh, i numeri cosa hanno detto? Ma i numeri hanno detto che su circa 18.000 persone che sono passate lì in quel periodo, la maggior parte, quindi 11.000, sono passate all'esterno della scala, dimostrando. Ecco, io ho fatto i conti, guarda, che circa l'86% ha evitato la scala, quindi gli superstiziosi sono. Poi ci sono quelli che vogliono sfidare, che sono comunque superstiziosi, ma che vogliono sfidare, no? E quindi io sono uno che passa sotto le scale, perché la sfida è proprio quella. Poi, insomma, esattamente, no, io tra sfida, ecco, la D. Per me è il gatto nero quello che mi blocca un po' di è più. È un po' di più, hai il tuo rituale. Poi quali sono la rete, poi, cosa ha fatto su? Guarda, ancora? Un'altra cosa divertente è successa per esempio a Zurigo per la promozione di un'assicurazione, di un servizio di assicurazione. Perché praticamente il giorno, non per caso, insomma, venerdì 13, giorno funesto per antonomasia, sono stati gettati letteralmente a terra una serie di vasi, come fossero caduti da un balcone. Una serie di vasi messi uno dopo l'altro, che poi in realtà fortunatamente lasciavano una scritta che poi era la call to action, diciamo, l'oggetto della promozione stessa. Oggi è venerdì 13, sei ben assicurato? Perché le cose possono accadere, così come può caderti un vaso in testa se passi per la strada. Non so se ha avuto successo, almeno in rete sì, perché se ne è parlato. Non so se poi ha funzionato da un punto di vista delle vendite. Ne hai ancora una, se non mi sbaglio? Guarda, sì, c'è una storia divertente invece, che non è frutto, se vogliamo, di una strategia di guerriglia marketing, che accade in Giappone, dove il famoso snack KitKat da qualche anno a questa parte, dal 2003 circa a questa parte, è diventato, se vogliamo, lo snack portafortuna. Questo nasce, diciamo, da una similitudine tra la parola, appunto, tra lo snack KitKat e la frase giapponese Kitokatsu, che vuol dire spero possa accadere, spero possa succederti, quindi una sorta un di porta buono, certo. Esatto, da lì che è successo, che con gli anni, attraverso della piccola strategia che ha riguardato più che altro gli studenti universitari, che sono stati, diciamo, se vogliamo, i soggetti principali dove è stato distribuito questa sorta di porta fortuna, con il passare degli anni nell'immaginario collettivo giapponese questo snack si è imposto come appunto oggetto contro la sfortuna, specialmente per il giorno degli esami. Ecco, quindi in Giappone attualmente ci sono ben 40 tipi di KitKat, uno per ogni gusto e per ogni sapore. Esiste una fortuna, è una fortuna per l'azienda che lo produce, ovviamente, esatto, insomma, anche perché è assolutamente involontario, e quando le cose sono involontarie sono sicuramente ancora più forti. Grazie Fables. Grazie a voi. Buona giornata. Blogger.it, vi ricordo il suo sito per leggere come si muove il mondo del guerriglia marketing. È arrivato anche il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta. Tu hai i tuoi riti, Davide, in cucina? Bah, io direi proprio riti veri e propri no, magari c'è l'unica superstizione non mangiare quello che mi fa male. Probabilmente, l'unica cosa, però i veri riti non è che faccio i giri attorno alla tavola. No, beh, questo no, però sai che ad esempio leggevo tra i messaggi che sono arrivati oggi, perché ognuno ha il suo, no, ovviamente, il suo rito, c'è qualcuno che dice, mia nonna mi raccontava che portava male girare il minestrone o comunque la pasta in senso antiorario. Infatti noi lo facciamo in senso sempre orario, no, ma penso che sia così una normale, cioè lo facciamo, ma forse invece abbiamo questo retaggio che farlo in senso antiorario porterebbe sfortuna o comunque rovinerebbe il cibo, chiaramente. Ma non è vero, no. Però devo dire che questo non l'ho mai sentito. Ci sono come posso dire, dei modi di fare per non far diventare, che ne so, la salsa matta, queste cose qua, però non sono superstiti. Eh no, beh, certo, quello è vero, ecco, funziona. Sono veramente dei fatti fisici e chimici che si muovono, e quindi è impossibile dire. No, devo dire che non ho superstizioni, anche perché non è così, non le ho anche nella vita di tutti i giorni, quindi sicuramente questo per il perché. Quindi non ti appartengono assolutamente. Quindi anche in tavola, per esempio, non hai delle cose che devono assolutamente esserci, perché secondo te una tavola, perché il, cioè, sai, quel qui un po', io non ci credo che tu non abbia neanche un rito, Davide, davvero. Non sei, non puoi essere un piccolo rito l'avrai nella tua vita, un porta buono, no, non so, accendi una candela, non so, ce l'avrai, no, davvero. No, cioè, a tavola no, su altre cose sì. Un uomo di ghiaccio proprio, così, Davide. So che ad esempio se cade il sale porta male. Cosa fai in quel caso? Questa cosa mi rigiro, mi dicono che bisogna buttarlo dietro, no? Ti rigiri dietro. E quindi, ma sai, lo faccio per un fatto meccanico più che altro. Non è, io l'unico rito che ho nella vita è così superstiziosa quando mi attraverso un gatto nero. Ecco, anche tu, ecco, vedi che ce n'è uno, insomma, non posso credere che tu non abbia, insomma, così, almeno uno. Senti, c'è un vino che si dice possa portare buono? veramente, veramente di grande difficoltà questa. Io proprio non posso portare buon... Basta il vino della festa, sono le bollicine. Sì, certo, certo. Le bollicine si festeggia sempre con le bollicine, quindi se vogliamo il rito è questo, cioè di festeggiare, di fare il brindisi con le bollicine. Però cioè, anche su questo diciamo sì, si fa, però non credo che la gente ci creda veramente fino in fondo su queste cose. Io credo che molti riti siano su chi cucina, probabilmente, su chi cucina per vecchie tradizioni. Sicuramente le nonne probabilmente hanno questi riti scaramantici, però devo dire che io non ne ricordo. Oppure quando si cade il vino sulla tovaglia, uno si tocca, si mette il vino dietro le orecchie, perché dice che così porta bene, insomma. Ecco, queste sono cose, ma mi sembra che siano cose che ormai le fanno un po' tutti, non è che uno ci creda. Io credo che questo qui sia un fatto meccanico di ripetizione, quello che fanno gli altri. Sì, beh, sicuramente. Magari c'è attorno alla tavola il primo che lancia questa cosa, evidente, poi tutti si accostano. Beh, certo, anche però... perché, sai, uno non ci crede, però non si sa mai. Senti, Davide, siccome gli sportivi spesso sono superstiziosi, no? Comunque nei loro riti, e così anche gli attori, insomma, chi si occupa di spettacolo, secondo te anche gli chef lo sono? Hanno dei loro... Ma secondo me sì, nelle cene importanti credo che anche loro abbiano i loro riti, magari non lo raccontano, ma sicuramente le hanno. Poi, sai, tra i cuochi c'è sempre chi sarà superstizioso, quindi sicuramente anche loro si comportano così. Però penso che l'emozione come ce l'ha, o la tensione come ce l'ha un atleta, sicuramente ce l'ha anche un cuoco, perché molte volte anche loro partecipano a dei momenti in cui vengono giudicati. Certo, allora, sono in competizione comunque. Sono in competizione, come io so che magari molti di loro, quando sanno che arriva così segretamente l'ispettore di una delle guide, sicuramente sono tesi, sono pronti, quindi magari avranno i loro riti, non so quali, però li avranno di sicuro. Magari accendono una candela è da qualche parte, o magari hanno, non so, la coda di rospo, ma non il pesce, proprio la coda di rospo vero, cioè la pelle di rospo buttata, magari essiccata e triturata in una pietanza, sai come si faceva una volta. Oppure hanno tanti cornetti che magari toccano, invece di avere i cornetti hanno magari dei peperoncini a forma di cornetto e toccheranno quelli. Ecco, guarda, quello dovrebbe portare fortuna, basta che tu te lo faccia regalare. Ecco, quindi se qualcuno dovesse regalarti un cornetto, e va bene anche un peperoncino, allora fatelo regalare, quello ti porterà buono sicuramente, e sarà ancora più buono se messo magari sulla pasta, ovviamente. Ma questo cos'è? Ti è arrivato un SMS? No, perché abbiamo scoperto che i cornetti rossi, per essere fortunati, devono essere prima cosa regalati e poi devono essere cavi all'interno. E il peperone un po' cavo all'interno hai capito? Non è proprio pienissimo. Un pochino di cavità ce l'ha. Per cui il peperoncino, secondo me, regalato porta fortuna. Ecco perché. Quindi non bisogna comprarlo. No, non devi comprare, devi solo fartelo regalare. Che voglio dire, porta fortuna sicuramente, perché uno non sborsa soldi, di conseguenza non può che essere così. No, io mi immagino una scena in cucina in cui quante volte cadrà il sale in terra. Speriamo di no. E mi immagino che ci sia una semina all'indietro. Può essere anche così, perché insomma, comunque abbiamo scoperto, Davide Paolini non ha paura niente, non ha gesti scaramantici, non è superstizioso, l'unica cosa sono i gatti neri, per cui insomma, sappiatevi. Ma un momento, stiamo parlando di cucina, io ti ho detto certo. Nero, ma ti posso spiegare anche perché sono diventato superstizioso? Perché una sera che andavo a trovare una mia zia, mi ha attraversato un gatto nero e sono arrivato a casa e mia zia si era rotto un braccio. Ecco, e allora da quella volta lì... ma è così che funziona, abbiamo scoperto che funziona proprio per queste cose. Grazie Davide, ciao. Buona domenica. Io avrei voluto sapere, ma non li conosceva, mannaggia, i riti degli chef, potrebbe essere interessante sapere cosa fanno. Abbiamo chiuso, diciamo così, questa prima parte di Riposo del Guerriero. Tra pochissimo giocheremo con il mistero in 24 minuti, vi ricordo il numero 800 24 00 24, ma prima di chiudere, l'ultimo rito scaramantico. O Munasciello. Il personaggio è esoterico, ed è temuto dal popolo per i suoi dispetti, ma è anche amato perché a volte fa sorprese gradite che sollevano anche economicamente la situazione di una famiglia. Egli si manifesta come un vecchio bambino che indossa il saio dei trovatelli che venivano ospitati nei conventi. Amante delle donne, leggermente vizioso, è solito palpare le ragazze belle. E in cambio di questo e o dello spavento che il suo aspetto scheletrico procura a chi lo incontra, lascia delle monete. Il riposo del guerriero. 11:38 minuti in questo momento, pronti con il nostro mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. La possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi libri cartacei ed elettronici per voi, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Per arrivare alla soluzione dovrete ascoltare gli indizi musicali, più indizi ascolterete però più il premio si abbasserà. La risposta, come sempre, può essere un personaggio o qualcosa di conosciuto o una notizia della settimana, e questo è il primo indizio. Senza luce della primavera, col vento non se ne andrà. Eccoci qui, 800 24 00 24. Raffaele da Milano è il primo di oggi. Allora, Raffaele, buongiorno. Signor Gallarini, buongiorno. Eccoci qua. Molto volentieri. Grazie, anch'io. Hai qualche così qualche gesto scaramantico? Hai toccato qualcosa prima di telefonare oggi? No? Probabilmente sì. Bene, allora. Io confido nella divinità, insomma, nella. Vediamo se funziona, allora, dai, proviamoci. Cosa vuoi fare? Universale. Cosa vuoi fare? Dare una risposta? Ma io volevo dare una risposta perché la prima cosa che mi è saltata in mente, mi sembra la più, così per me, dal mio punto di vista, la più verosimile. È la richiesta degli Eurobond da Pechino, insomma, un fatto abbastanza. Direi di sì. Direi di sì. Cioè di sì, non che sia la risposta giusta, potrebbe anche esserlo ovviamente, però come sai si saprà solo alla fine della puntata. Mi raccomando, poi se dovessi vincere raccontaci qual è il gesto scaramantico che hai fatto, vero? Ok. Va bene. Grazie Raffaele, ciao. Ciao, ciao. Buona giornata. Ci sento per radio, eh? Certo, ciao. Siamo ancora a 1000 euro. Paola da Milano, buongiorno. Sì, ciao. Allora, questo è il primo indizio. Anche tu hai fatto qualche gesto scaramantico prima, oggi? Ma no, stavo scarabocchiando su un blocco. Non è che hai visto una cosa del beneaugurio, non so, sai, quei segni. Ah beh, se vedo quel segno vuol dire che, ecco, no. No, sono preso in mano una matita. E basta, va bene. Così. Allora, hai toccato legno, diciamo così, visto che la matita, ecco, è di legno. Giusto, sì, quello è. Paola, cosa vuoi fare? Altro indizio oppure dai la tua risposta? Allora, a questo punto vorrei un altro indizio, grazie. Perché eri sulla stessa scia di Raffaele? Forse a questo punto è ragionevole ricercare. Allora, ascolta questa bella canzone di Pino Daniele. Per non avere tutti i giorni uguali, anima che troppe volte metti sotto i piedi, l'anima tiro fuori quando non mi credi, l'anima che a volte ti fa ragionare anche se hai voglia di lasciarti andare. Voce inconfondibile quella di Pino Daniele. Io trovo che questo testo sia bellissimo. Bravo Pino. Paola, Anima si intitola questa canzone. Sì, allora dico subito che non mi ha suggerito niente. Aspetta, ti posso dare così l'occasione di attendere aggiornamenti sul traffico, quindi pensare e darmi la risposta. Cosa vuoi fare? Ma io, cioè, l'unica cosa che ora mi sento di dire, avrei dato la risposta della persona che avete cercato prima di me. La stessa. Io avrei dato la stessa risposta, non mi sento di di avanzare altre ipotesi. Sì, perché io ascolto, vi ascolto quasi tutto il giorno, appena rientro a casa accendo la radio, sento dire tante cose, ho sentito varie interviste a persone importanti italiane. Ma niente ti viene in mente? Come? Niente ti viene in mente, se non quello. Preferisco non azzardare. Va bene, Paola, niente, buona giornata, cosa devo dire? Grazie, ciao. Grazie anche a voi, ciao. Ciao, a tra poco per gli altri. Un mistero in 24 minuti. Andiamo avanti con Francesco dalla provincia di Siracusa. Francesco. Allora, una risposta data soltanto in questo momento, ma due gli indizi. Siamo a 500 euro. Che cosa vuoi fare, Francesco? Francesco? Niente. No, ne è andato giù, lo sentivo male. Infatti, Antonio da Brescia. Buongiorno. Ciao Antonio, buongiorno a te. Allora, dicevo, 500 euro, una risposta data perché Paola ha rinunciato. Tu che cosa vuoi fare? Vorrei sentire un altro indizio. Allora scendiamo a 300 euro per una vecchio, per un vecchissimo successo dei Frankie Goes to Hollywood. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora Antonio, non so se ti ricordi, questa canzone si ballava molto in discoteca. Evito di farti la traduzione del testo, ma ti dico solo il titolo, che era Relax, cioè rilassati. Ma guarda, l'unica che mi viene in mente, sempre riferita al primo soprattutto, ho sentito parlare del pianista cinese La Ling in qualche notizia, ma dico lui sostanzialmente. Grazie Antonio, buona giornata, buona domenica. Grazie. Ciao. Chissà se Carlo da Massa invece ha fatto qualche rituale prima di telefonare. Carlo? No, non ci credo molto nei rituali, quindi non ne ho fatto. Nessun gesto scaramantico, quindi. No. Allora Carlo, qui oggi non ci crede nessuno, poi non lo so perché, però dal, appunto, l'86% degli spagnoli pare sia superstizioso, quindi poi bisogna vedere. Adesso metterò una scala davanti alla porta di tutti gli ascoltatori e voglio vedere come vi comportate. Allora Carlo, cosa vuoi fare? Abbiamo tre indizi ormai già rivelati, siamo a 300 euro, puoi dare una risposta? Ma io provo a dare una risposta. Allora aspetta, sentiamo i tre indizi scoperti fino adesso. Mister Mandarino. Anima, in questa vita c'è bisogno di più anima. Relax, don't do it when you wanna go to it. Ecco, Mister Mandarino e Mattia Bazar, Anima, Pino Daniele, Relaxi, Frankie Goes to Hollywood. Allora, Carlo. Ma io dico questa notizia che ho sentito questa settimana, che in Cina è stato inaugurato un servizio postale in cui delle lettere che si spediscono al proprio innamorato verranno recapitate solamente 7 anni dopo, più tardi. Non dico niente, certo che i cinesi sono strani. Ciao caro, buona ciao. Giornata, ciao. Mario da Ravenna, buongiorno Mario. Pronto, ciao, buongiorno. A te. Allora, 300 euro abbiamo qua sul tavolo, cosa vuoi fare? Abbiamo anche altri indizi se vuoi, eh. No, io ho subito pensato a una persona, quindi posso dare la risposta senza indizi. No. Ma dimmi. Secondo me è Romano Prodi, il professore Prodi, perché è legato con la Cina, chiaramente, per i suoi viaggi, perché insegna in Cina, eccetera, eccetera. Che sta tornando la ribalta, cominciamo a risentirlo. Grazie Mario, buona giornata. Prego, altrettanto, ciao. Giuseppina da Modena. Sì, buongiorno. Giuseppina. Buongiorno. Io in effetti la mia idea rimane quella del primo ascoltatore, la richiesta da parte di Tremonti alla Cina. Guarda, è sbagliata, siete fuori strada. Ho riascoltato anche adesso gli indizi, ma purtroppo non riesco, a mettere insieme a mettere insieme i vari indizi, sì. E cosa devo fare, Giuseppina? Fartene ascoltare un altro e scendere a 200 euro? Sentire una tua risposta? Rinunci? Cosa fai? Guarda, rinuncio e lascio spazio magari a chi... A Stefano di Napoli, vediamo un po' se gli andrà meglio. Grazie, grazie Giuseppina. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao Stefano, ringrazio Giuseppina. E senti, ma tu da napoletano avrai qualche gesto scaramantico? Ma ti dico la verità, non ci vado molto appresso alla scaramantica. Okay. Niente, quindi neanche questa storia dei napoletani che sono superstiziosi è vera. Niente, oggi non è vero nulla. Vabbè. Allora Stefano, cosa vuoi fare? Provo a dare una risposta che poi il primo nome che mi è venuto in mente fin dall'inizio, le altre canzoni un po' così, qualcuna non so cosa ci possa entrare, comunque dico Gasperini, allenatore dell'Inter. Grazie Stefano, buona giornata, ciao. Okay, tra l'altro è arrivato anche un messaggio che riguarda la Roma con l'Inter, che avrebbe fatto una cosa, non ho capito niente, però vabbè, comunque sia. Daniele da Brescia, buona giornata, un gesto scaramantico, stavo parlando di quello, è arrivato questo messaggio di questa partita, ma giuro che non ho capito nulla. Allora, Daniele da Brescia, ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno Daniele, abbiamo un minuto. Sì, dimmi. Ho ascoltato solo l'inizio della trasmissione e avevo pensato alla delegazione cinese che è arrivata a Roma per fare degli investimenti. Non so se è già stata detta questa risposta. Non è, sì, è stata detta in realtà, in qualche modo detta. Non è la risposta giusta, Daniele. E cosa facciamo? Non ho capito, la risposta giusta? No, non è la risposta giusta. Allora non lo so, i cinesi nello sport, così... Grazie Daniele, grazie. Io provo con Alessandro della provincia di Bologna. Alessandro, buongiorno. Dimmi. Noi abbiamo due gatti neri in casa. Ecco, vabbè, allora porterà un fortuna. Dammi la risposta giusta, ti prego. Vai. Guarda, le risposte che volevo dare le hanno date prima. Cioè, allora facciamo così, Alessandro, facciamo così. Ciao, richiama la settimana prossima. Okay, come se tu non avessi partecipato, lo dico anche per il centralino. Ciao, grazie Alessandro. La risposta ve lo do io. Allora, la risposta è questa. In Olanda è stato fatto uno spot di una scuola di yoga che ha usato il nostro presidente del consiglio come testimonial. Adesso non so cosa accadrà a questo spot. Sono stati tre i testimonial. Uno è il presidente del consiglio, che è in una posizione di yoga, e la scritta dice yoga per anime turbate. L'altro è Ahmadinejad, il capo del governo iraniano, e dice yoga per una mente più flessibile. E l'altro ancora testimonial sarebbe Geert Wilders, che è il leader olandese del partito ultranazionalista, e la scritta dice yoga per essere più simpatico alle persone. Non so se qualcuno ovviamente si lamenterà per questa pubblicità, per essere usati come testimonial, non si può ovviamente se non c'è il consenso, vedremo come andrà a finire, però è stata fatta. Grazie a Giorgio De Luca come sempre per la redazione, grazie a Paolo Corleone in regia e a voi, ci sentiamo domenica prossima alle 10, buona settimana da Stefano Gallarini.